Buonasera Sassà. Ciao Babek. Oppure ciao, già, questo è comunque un podcast, siete su Absolute Beginners, quindi potete ascoltarci più o meno quando volete. Un podcast dedicato per davvero a una cantautrice che merita tantissimo, sicuramente merita la nostra e immagino anche la vostra attenzione, ma di sicuro non ha mai venduto più di 100.000 copie in tutta la sua carriera. Stiamo parlando di Lisa Germano. Stiamo parlando di Lisa Germano, un'artista che il fatto che lei abbia venduto molto bene non è perché non è brava, anzi, se noi ne parliamo oggi è perché ci piace tanto. È il contrario. È il contrario, forse troppo brava e forse mai incline ad arrendersi a leggi del music business, volendo portare avanti quello che aveva in testa. E non c'è occasione migliore, oggi la vigilia, festa della donna. Parliamo di Lisa Germano, artista grandissima, e iniziamo, Babe. Thank you. Come parlare di Lisa Germano? Non è facile, non siamo neanche abituati a mettere musica, tra virgolette, così meditativa. Ha un modo di cantare parecchio dimesso e una cantautrice che, siamo nel 1991, non era certo di moda. Se riuscite un po' a contestualizzare il periodo, il 91 è l'album di esplosione del grunge, deflagra Nevermind dei Nirvana, figuratevi voi. Arriva Lisa Germano che apre il suo disco con uno strumentale che ricorda la musica classica, con addirittura un mandolino. Assolutamente, Babe, e possiamo spiegare forse alcuni di questi dettagli dicendo che Lisa Germano nasce da famiglia di origine italiana a Mishawaka, Indiana, nel 58, e figlia di musicisti, e lei impara a suonare sin da bambina tanti strumenti. Il suo strumento principale rimarrà il violino, rimarrà, ma ad esempio in questi brani che avete sentito, in particolare nel primo strumentale che si chiama come l'album On the Way Down from the Moon Palace, Lisa Germano suona tutti gli strumenti. Un disco che si è completamente autoprodotto, d'altronde chi ti produce un disco del genere, appunto, che inizia con uno strumentale e qualche sassolino nella scarpa, dato che aveva già un qualche background nel music business, se lo deve essere tolto. Se il secondo album si chiama Guessing Game, e poi tra parentesi, or the music business. About my feelings. Thank you. Beh, dicevamo album autoprodotto, questo On the Way Down from the Moon Palace, e accennavamo anche la carriera pregressa di Lisa Germano. Sì, perché nel 91 Lisa Germano aveva 33 anni e da brava polistrumentista e corista aveva fatto la sua carriera come, penso, come minimo dei tour, o non mi ricordo se fosse addirittura nella band di John Cougar Mellencamp. Gentili ascoltatori, non so quanti di voi si ricordino di John Mellencamp, ma Mellencamp dagli anni 80 era un po' uno Springsteen di serie B. Se mi sentisse, non penso sarebbe contento. Comunque era il classico cantautore americano, qualcosa di folk c'è anche nei dischi di Lisa Germano, che raccontava la provincia americana nella maniera, se volete, anche un po' rozza, ma anche molto genuina. Magari non è del nostro gusto, ma aveva una sua capacità narrativa, e se chiedete a uno come Ligabue, tanto per stare in Italia, sicuramente John Mellencamp lo conosce molto bene. Sì, Lisa Germano probabilmente, appunto, dopo tanti anni come side woman di una band, probabilmente si rese conto che aveva qualcosa da dire, voleva dirlo a modo suo, non tramite le canzoni di altri, ed è così che vede luce questo lavoro del 91, che attirò attenzioni di critica, tanto che la Capitol Records offrì poi a Lisa Germano di produrre il suo secondo CD, che si chiama Happiness, Babe, se non sbaglio. Sì, sì, è quello, un altro CD che forse, ecco, lì forse un 30-40 mila copie sarà anche riuscito a venderle. Sì, non parliamo di numeri da superstar, anzi no. Possiamo usare l'etichetta anti-diva quando parliamo di... No, i numeri di Mellencamp non penso li abbia mai, visti, anche se immagino che quanto talento compositivo sia molto più bravo Lisa Germano. Sì, una personalità eccentrica, tant'è che poi ebbe dei problemi con quasi tutte le etichette con le quali lavorò. Adesso i motivi probabilmente noi non li sappiamo, ma dopo Capitol passò alla 4AD, che è questa etichetta inglese, e continuerà poi a produrre album dei 90 e nei 2000. the street, just riding my bike. Then this man came up to me, was driving his car, riding my bike across the street, just riding my bike. Something was wrong, this didn't feel right. My heartbeat fast. He said, which way is Adams Street? My heartbeat fast. Hey little girl, you sure look cute on your bike. Hey pretty girl, you want a little of this? You sure look cute. Poi quanti dischi uscivano e quanti dischi avrei comprato io nel 91, non l'avrei comprato questo disco nel 91, ero un ragazzo con degli intermezzi musicali senza... E non è un concept album dove magari gli intermezzi senza cantato erano, come dire, comuni, nei dischi tipo, penso a Pink Floyd, ne parlavamo prima con Sassà, Microfoni Spenti, però quali erano dei concept? Questa è una raccolta di canzoni intervallate da... composizioni, come dire, io non è che sia certo un esperto di musica da camera, ma mi sembrano composizioni ben fatte, con riferimenti anche colti. Ma sicuramente perché Elisa Germano aveva studiato musica al conservatorio, quindi è da qui che vengono questi aspetti delle sue composizioni che hai appena citato, Babe. Sorry for myself. All I wanna do is get high. That's it. All of this Abbiamo ascoltato adesso Cry Baby, forse il brano che ricevette più successo dell'otto di questo primo album di Lisa Germano, e i nostri ascoltatori e ascoltatrici si saranno, immagino, sorpresi di come siamo ben distanti dalle sonorità punk, post-punk, che hanno più o meno caratterizzato buona parte dei nostri podcast fatti fino ad ora. Bene, potremmo però certo accusarsi di aver messo un disco balneare. Diciamo che ho sempre pensato che Lisa Germano fosse tra le regine della malinconia. Si mette nudo completamente in quasi, no, in tutte le canzoni che scrive, parla di cose apparentemente semplici, ma spesso, quasi sempre, trapela un'angoscia esistenziale non da poco, e che poche cantautrici e cantautori sono stati in grado di rendere così efficacemente e anche così crudamente. Feels like dancing, it feels like falling on the ground, real hard. It feels like swimming, it feels like drowning. I know you think that this is over, and life goes on. Poor you must suffer all alone. It feels like giving, it feels like taking my light away. It feels like loving, it feels like hating. Let it go. It's weird, but I think I could reach you. Those doors will open. You have to want to go on. Let it go, let it go, let it go. Let it go, let it go, let it go, let it go. It feels like dreaming, it feels like nightmares. Waking up feels like dying. You took your love away. I know that you're a sad man, but am I to pay for your miss? bye-bye, little doggy. It's the other one. The other one gets hurt. Time it doesn't help. And the other one. Time it doesn't help. And the other one. Hold me sacred. Thank you. Beh, i suoni non saranno proprio quelli del grunge del 91, ma il mood direi invece proprio di sì. Il mood malinconico, i temi, forse erano anche un po' i temi di quell'epoca, di quegli anni, quando il punk sotterraneo underground esplose e lei a un certo punto di vista esplose, o quantomeno abbandonò il mainstream, e forse anche in funzione del fatto che sembrava che l'underground potesse avere un minimo di risalto, il minimo necessario per guadagnarsi da vivere con la propria arte. Ma non fu così per Lisa Germano e non è stato così per tantissimi musicisti che negli anni 90 sono riusciti ad andare avanti nei loro 20 anni e poi hanno dovuto cominciare a fare altro. Lisa Germano stessa poi si mise a lavorare in una piccola libreria indipendente a Los Angeles quando si spostò in California. Sì, dove vive tuttora, dove comunque continuò a fasi alterne a scrivere canzoni, a produrre CD. L'ultimo è del 2013, che tu, Babe, hai potuto vedere un concerto di questo tour. Sì, sì, era riuscito a venire dalle nostre parti, in Italia. Quindi vuol dire che, beh, sicuramente per una sicurezza economica, come dicevi, Babe, si è dovuta reinventare ritrovandosi commessa in una libreria indipendente di Los Angeles. Dall'altro punto di vista, sicuramente non ha perso la voglia di raccontare le sue storie, le sue fantasie e le sue paranoie, come dicevamo prima. E con questa vi salutiamo, ricordo sempre che potete trovare i nostri podcast in quel poco di che possiamo scrivere a proposito di una cantante come Lisa Germano, perché poi bastano le sue parole, se avete la pazienza di leggere i testi, su absolutebeginners.blogspot.com. Con questa vi salutiamo, alla prossima, ciao Sasa. Ciao Babe, ciao a tutti.